L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti al consueto riepilogo dei fatti e dei personaggi più importanti dell'ultima settimana, che per noi è cominciata sabato scorso 9 gennaio e si è conclusa ieri venerdì 15 gennaio. Nella prossima ora parleremo di tante cose, di politica, di immigrazione, prendendo naturalmente spunto dalla vicenda intricata, rovente di Rosarno. Come sempre riascolteremo alcuni servizi andati in onda in questi giorni nei GR di Radio 24 e in più avremo l'opinione di un paio di giornalisti del Sole 24 Ore. Ma per aprire questa puntata dell'ottavo giorno siamo costretti a dare la precedenza alla notizia che pesa un po' come un macigno per la sua gravità, per la sua drammaticità, che tra l'altro è in continuo aggiornamento. Sto parlando naturalmente del terremoto di Haiti. Sono infatti le 16:53 di martedì 12 gennaio, in Italia manca poco alle 11 di sera, quando un terremoto spaventoso di magnitudo 7 devasta Haiti. Siamo nel cuore dei Caraibi, con epicentro ad una quindicina di chilometri, quindi vicinissimo alla capitale Port-au-Prince. Anche in queste ore potete ascoltare naturalmente su Radio 24 gli aggiornamenti di un disastro di dimensioni davvero bibliche. Non voglio esagerare con le parole, però insomma stiamo parlando di decine e decine di migliaia di morti, tantissimi gli sfollati, sono addirittura incalcolabili per ora i danni materiali ed economici. E non parliamo poi delle scene apocalittiche, insomma, legate al rischio per esempio di epidemie di colera, tifo e peste, di cui sentiamo anche in queste ore, oppure le immagini delle strade bloccate da schiere infinite di cadaveri. Insomma, tutto impressionante, tenendo conto che stiamo parlando di uno dei paesi più disgraziati dell'area caraibica, vittima nei secoli prima del colonialismo e poi dei dittatori che si sono succeduti senza scrupoli negli ultimi decenni. Naturalmente le colpe dell'uomo in questa vicenda sono evidenti, se è vero che persino gli edifici dell'ONU, quindi gli edifici che sulla carta dovrebbero essere più sicuri, sono crollati e in tutti questi anni sono stati ignorati, oserei dire scientemente, tantissimi appelli alla prevenzione. Noi torniamo alla mattina di mercoledì, quindi poche ore dopo il sisma, ecco come la redazione di Radio 24, con la voce di Valentina Furlanetto, nel GR delle 9 di mattina, ha ricostruito la vicenda. È scesa la notte ad Haiti, ma nonostante il buio e l'assenza di elettricità si scava ancora sotto le macerie. Centinaia di persone sono rimaste intrappolate nel crollo degli edifici. Il bilancio dei morti non è ancora disponibile, ma c'è chi si spinge a dire che potrebbero essere migliaia. Ad esempio 200 persone sicuramente sono rimaste intrappolate sotto le macerie di un grande albergo della capitale, così come riporta il sottosegretario alla cooperazione francese. Incerto il destino dei nostri connazionali, come spiega anche Gianfranco Del Pero, funzionario dell'ambasciata di Santo Domingo. Noi abbiamo 60 italiani circa che sono lì di una vecchia emigrazione che è rimasta lì e di loro purtroppo notizie noi non ne abbiamo. Abbiamo invece notizie degli italiani della ditta Ghella di Roma, che è una ditta che fa le strade, c'è un cantiere di 150 persone, di cui 12 italiani. Grazie a Dio non gli è successo niente. Crollati anche il palazzo presidenziale, 3 ospedali e il quartier generale dell'ONU. Anche l'Italia è inevitabilmente sfiorata dal terremoto di Haiti, perché ci sono nostri connazionali sull'isola e non tutti rispondono immediatamente all'appello dei familiari. Il compito di stabilire i contatti spetta naturalmente alla Farnesina, cioè al nostro Ministero degli Esteri. Sentiamo la situazione aggiornata giovedì sera con questo servizio di Alessandra Schepisi. Sale a 100 il numero dei nostri connazionali rintracciati dalla Farnesina, connazionali che si sono salvati dal terremoto e che stanno bene. Questa è l'unica certezza in un quadro ancora molto confuso e in costante evoluzione. All'appello mancherebbero alcune decine di italiani, ma, dice il responsabile dell'unità di crisi della Farnesina, Fabrizio Romano, non è possibile definire il numero preciso. La cifra dei 191 italiani presenti ufficialmente nell'isola data in questi giorni è infatti solo un riferimento formale. Noi lavoriamo sulla base dell'anagrafe consolare che riporta quel numero che abbiamo citato sin dall'inizio, ma integriamo questo con tutta una serie di sistemi di verifica e di ricerca, a cominciare dalle segnalazioni che ci vengono date da familiari, amici, conoscenti di persone che si trovano ad Haiti. Del resto queste segnalazioni sono anche aumentate a seguito dell'appello che grazie a voi abbiamo potuto lanciare in mattinata. Quanto ai dispersi, Romano si augura che il motivo sia soprattutto la difficoltà di comunicazione, e intanto ad Haiti è arrivato un funzionario dell'unità di crisi che in queste ore si recherà all'hotel Montana e Christoph, distrutti dal terremoto, dove pare vivessero parecchi italiani. Ancora oggi ci sono italiani che non hanno risposto all'appello, c'è apprensione per qualche persona, però insomma non ci sbilanciamo troppo nelle previsioni. E invece bisogna dire che una tragedia simile è riuscita a fare un miracolo, perché Cuba, che si trova vicinissima, ad uno sputo di distanza da Haiti, in questi giorni ha deciso di aprire lo spazio aereo, pensate, agli odiati americani, per far evacuare i detenuti di Guantanamo. Gli Stati Uniti naturalmente sono molto interessati e coinvolti dal terremoto, perché sono a loro modo vicini di casa, la Florida è davvero vicinissima a sua volta ad Haiti, e per Obama in fondo si tratta della prima grave, vera emergenza umanitaria che deve affrontare da quando è presidente americano. Sentiamo su questo Cristina Balotelli nel GR delle 7 di ieri. To the people of Haiti, we say clearly and with conviction. Al popolo di Haiti diciamo chiaramente e con convinzione: non sarete dimenticati. L'America sta al vostro fianco, il mondo sta al vostro fianco. Con queste parole il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha concluso l'intervento, nel quale ha annunciato uno stanziamento immediato di 100 milioni di dollari per Haiti per l'acquisto di generi di prima necessità, cibo, acqua, medicine, tutto ciò che serve per salvare vite umane. La superpotenza mondiale è in prima linea nei soccorsi al paese più povero dell'emisfero occidentale, ridotto negli anni alla povertà più estrema da colonizzatori, prima francesi, poi americani, e dai suoi stessi governanti, dittatori corrotti saliti al potere in nome dell'anticolonialismo americano. Individui che hanno la responsabilità di avere contribuito all'inabissamento dell'isola nella povertà e nella superstizione, rapinandola per decenni. Oggi ad Haiti l'80% della popolazione vive con meno di $2 al giorno. Ora i ricchi del pianeta devono forse scaricarsi la coscienza. L'ottavo giorno. Sulla scena politica italiana, quella che è appena trascorsa è stata la settimana del rientro ufficiale, potremmo dire a telecamere accese, di Berlusconi dopo lo sfregio di Milano, l'aggressione del 13 dicembre scorso. Quindi è passato un mese, insomma, di attesa e anche di una certa melassa, permettetemi questo termine, melassa istituzionale, direi, attorno alla necessità di fare le riforme, di trovare un nuovo clima di rispetto reciproco tanto invocato, tanto voluto dal Presidente della Repubblica. Però direi che da quello che si è visto e sentito in questi giorni, mi sembra che sia tutto tornato tristemente alla norma. Ci siamo già gettati alle spalle questo periodo appunto di coro unanime bipartisan verso le riforme. I toni sono di nuovo saliti e Berlusconi si è mosso tra l'incontro con Napolitano, il primo ufficiale dopo l'incidente di Milano lunedì, e poi l'attesissimo, e vedremo poi nei giudizi di Stefano Folli come è andato, faccia a faccia con Fini giovedì. Berlusconi tra l'altro è tornato anche sui suoi soliti ritornelli: la giustizia da una parte e le tasse dall'altra sono state le due colonne portanti di questi giorni. Tra pochissimo chiederò appunto a Stefano Folli se il Premier a suo giudizio si è districato o meno con disinvoltura su questi temi. Prima però ci ascoltiamo Andrea Viali dopo il Consiglio dei Ministri di mercoledì, che ha avuto proprio la giustizia in primo piano. Gli attacchi di alcuni giudici sono peggiori dell'aggressione che ho subito a Milano. Non rinuncio a un nuovo affondo contro la magistratura, Silvio Berlusconi, al termine del suo primo Consiglio dei Ministri dell'anno. Sempre in tema di giustizia, il Premier fa anche sapere che il governo riproporrà l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione in primo grado, poi sostiene che sulla legge per il processo breve ci sono state calunnie e menzogne, infine conferma che non ci sarà un decreto blocca processi, un provvedimento che per l'opposizione sarebbe stata l'ennesima norma salva Premier. Siamo arrivati alla conclusione che la sentenza 333 della nostra Corte Costituzionale possa essere applicata direttamente dai giudici senza bisogno di un interpretazione da parte del governo attraverso un decreto legge. Da Berlusconi anche l'annuncio del via libera al piano carceri, col quale il governo punta a risolvere il problema del sovraffollamento dei penitenziari italiani, un piano che poggia su quattro pilastri, ha spiegato il ministro della giustizia Alfano. Dichiarazione dello stato di emergenza, il piano edilizio, due importanti norme di accompagnamento e 2.000 nuovi agenti di polizia penitenziaria. L'ho invocato prima di mandare il servizio di Andrea Viali e si è materializzato. È in collegamento con noi Stefano Folli, notista politico del Sole 24 Ore. Buongiorno Stefano. Buongiorno a voi. Allora Stefano, abbiamo appena riascoltato che insomma la voce giustizia, quando si parla di Berlusconi, gli ingredienti sono un po' sempre quelli: processo breve, decreto salva Premier, immunità parlamentare, Berlusconi contro i magistrati, CSM contro Berlusconi, che a sua volta apre un fascicolo per le dichiarazioni recentissime del Premier. E intanto ieri poi, ricordiamo, è ripartito, anche se è subito stato rinviato al 27 febbraio, il processo Mills che coinvolge lo stesso Berlusconi. Io Stefano francamente mi sono un po' annoiato di tutto questo refren sulla giustizia, però vorrei capire da te se almeno siamo vicini ad una svolta, si arriverà veramente un decreto, un provvedimento che metterà fine a questa storia? Ma se siamo vicini non lo so. Quello che possiamo dire è che nelle ultime ore, si può dire negli ultimissimi giorni, è prevalsa un po' più di prudenza, perfino un pochino più di buonsenso, al di là poi delle parole che si continuano a dire, rotolano sempre questi apprezzamenti, queste asprezze verbali di cui francamente si potrebbe fare a meno. Sul piano però dei comportamenti parlamentari mi sembra che ci sia un po' la volontà di procedere con un po' più di buonsenso, evitando strappi, lacerazioni ulteriori, e credo che in questo abbia un peso considerevole il consiglio del capo dello Stato, che in questa fase Berlusconi mi sembra ascolti molto di più di quanto non ascoltasse in precedenza. È chiaro che è una materia delicatissima, è chiaro che è un passaggio stretto, è chiaro che ci sono dei profili molto discutibili in quello che sta accadendo, però come dire, il problema di una destabilizzazione politica della legislatura imposta per via giudiziaria probabilmente ci farebbe pagare a tutto il paese un prezzo ancora maggiore, quindi alla fine il male minore sarebbe riuscire a trovare una soluzione il più possibile, diciamo, accettabile, che permetta di garantire una certa stabilità politica di qui alla fine della legislatura e quindi, diciamo, al governo e alle forze politiche di operare. Stefano, a tuo giudizio su cosa possono trovare una convergenza poi in fondo PDL e PD? Un nuovo Lodo Alfano rivisto e corretto? No, convergenze su questo francamente io non ne vedo molte. Mi sembra un po' difficile pensare che in tempi brevi l'opposizione possa convergere su questioni che riguardano strettamente il Presidente del Consiglio e i suoi problemi giudiziari. Al massimo ci può essere una qualche forma di, come dire, si chiude un occhio da parte dell'opposizione e si guarda a qualcosa di più generale. Ecco, su cosa puoi vedere più indulgenza, diciamo, da parte di Bersani e del PD? Beh, intanto direi tutto quello che riporta la questione nell'aula costituzionale ed evita, diciamo, degli strappi troppo evidenti, ma io credo che ci può essere una qualche prospettiva di confronto effettivo sui temi delle riforme della giustizia. È una riforma che riuscisse ad abbracciare in modo ampio i problemi del rapporto tra magistratura e politica, i problemi soprattutto della efficienza della giustizia in Italia. Se questo si riuscisse a fare, ecco che io credo l'opposizione potrebbe essere più indulgente, potrebbe in qualche modo decidersi a confrontarsi con l'opposizione in modo tale da non essere danneggiata agli occhi del suo elettorato. Tutto quello che allarga il raggio ed evita, diciamo, l'accusa evidente, diciamo, di qualche decisione, qualche passo che viene fatto unicamente pensando all'aspetto personale, giudiziario del Premier, tutto quello che allarga il raggio e investe invece i temi più generali della riforma della giustizia, beh, questo ovviamente potrebbe favorire, non adesso perché adesso ci sono le regionali, adesso ci sono altre tensioni in vista, ma dopo nel medio periodo potrebbe avvicinare in qualche modo le parti. Ecco, bisogna ricordare che Berlusconi in questi giorni non ha parlato soltanto di giustizia, per esempio ha tirato in ballo un suo piatto forte, cioè le tasse, anche se bisogna notare che quello che è sempre stato storicamente un suo cavallo di battaglia, ci ricordiamo insomma gli slogan meno tasse per tutti, mi sembra che almeno nella versione che abbiamo sentito di mercoledì, quindi di pochissimi giorni fa, da elemento di rottura, di rivoluzione che ha sempre contraddistinto la discesa in campo di Berlusconi è diventato qualcosa di diverso. Insomma, abbiamo sentito delle parole di Berlusconi estremamente realistiche, direi persino a ribasso. Sentiamo proprio su questo Vincenzo Miglietta. È un intervento netto e che non lascia spazio ad equivoci quello del Premier sul sistema fiscale. L'impianto impositivo italiano necessita di una riforma, dice Berlusconi, ma la crisi economica, spiega, non permette un taglio delle tasse. Abbiamo avuto anche una riduzione delle entrate dell'erario negli ultimi mesi, c'è stata una diminuzione del 5% del nostro prodotto interno lordo, soltanto per la spesa di interessi e questo maggiore debito 8 miliardi di euro all'anno. In questa situazione è assolutamente fuori di discussione che si possa pensare a una riduzione del taglio delle imposte. Contiamo di mettere mano alla riforma del fisco già quest'anno, dice ancora il Premier, ma sarà un lavoro lungo e duro. La situazione tributaria è diventata troppo complicata anche per chi deve applicarsi concretamente alle singole dichiarazioni. Il quoziente familiare resta un nostro impegno, dice ancora Berlusconi, per il quale è prematuro invece parlare di percentuali o numero delle aliquote. Del sistema fiscale parla anche il ministro dell'economia Tremonti, che spiega: serve un cambiamento, ma non possiamo fare stupidate o follie. C'è sempre il collegamento Stefano Folli del Sole 24 Ore. Stefano, io francamente, a sentire Berlusconi che dice apertamente non taglierò le tasse, insomma, mi fa una certa impressione, sembra quasi, conoscendo il curriculum anche personale di Berlusconi, un atteggiamento contro natura, se mi permetti la battuta. Ma il problema è che noi non siamo, come dire, osservati speciali in Europa e da parte poi delle agenzie di rating che devono qualificare il nostro debito pubblico, e non possiamo minimamente permetterci di apparire quelli che in qualche modo non considerano la priorità assoluta quella di contenere il debito. Questo Tremonti lo sa benissimo, e Tremonti è stato, credo, ferreo nel ricordare questo aspetto cruciale al Presidente del Consiglio, perché se noi non riusciamo a ricollocare i titoli del nostro debito pubblico sul mercato internazionale, beh, insomma, si aprirebbero scenari davvero drammatici. Questo spiega anche la chiarezza con cui Berlusconi si è espresso dopo quel primo passo in cui era tornato a parlare di due aliquote, di alleggerimento della pressione, che insomma era stato, come dire, un po' troppo impulsivo rispetto alla realtà dei conti pubblici. Ha fatto questo passo e poi ha dovuto precisare, ha dovuto spiegare. Rimane l'idea che, cosa giusta, insomma, che Berlusconi è in Italia probabilmente quello che più di tutti vorrebbe operare una riduzione della pressione fiscale. Questo è proprio nella sua natura, nel suo intimo desiderio di imprenditore, oltre che di politico. Ma in questo momento ha le mani completamente legate. E questa volta possiamo dire che Tremonti l'ha vinta, insomma, l'ha spuntata nella disfida con Berlusconi. L'ha spuntata, si è avuta l'impressione un po' di un andamento un po' a zigzag del governo su questa materia, però alla fine il messaggio che arriva appunto all'Europa è piuttosto netto e preciso e coerente. Stefano, l'ultimo minuto lo vorrei spendere per fare un po' il resoconto, al di là poi di quello che le agenzie hanno detto, i giornali hanno scritto, dell'incontro tanto atteso, fatidico per certi versi, tra Berlusconi e Fini, due cofondatori del PDL, mai così lontani nelle loro posizioni come negli ultimi mesi. Ho notato che la parola usata e forse anche abusata un po' da tutti i commentatori politici per giudicare l'incontro tra Fini e Berlusconi di giovedì è stata tregua, che mi sembra un po' un eufemismo per dire, insomma, che i problemi rimangono. Anche ieri Berlusconi pare si sia sfogato con i suoi, dicendo di essersi un po' annoiato di tutte queste mediazioni con Fini. Insomma, tra i due continua a non scorrere proprio buon sangue. Sì. Io non ho usato la parola tregua, ho detto né pace. L'ho detto apposta per esaltare la tua differenza dagli altri. Sì, ma perché non mi aspettavo niente da questo incontro, naturalmente, nel senso che sono due personaggi che percorrono la loro strada, non c'è motivo di immaginare un divorzio brutale, perché non sarebbe politicamente logico, e nemmeno si può immaginare chissà quale accordo. Immagino che via via continueranno i momenti di tensione, a cui faranno seguito momenti di parziale pacificazione. Sarà un po' il leitmotiv della legislatura, io credo, a meno di eventi nuovi e clamorosi. Non mi sorprende, mi sorprende semmai appunto tutta l'attenzione che è stata dedicata a questo incontro, che non poteva essere risolutore. E poi mi stupisce un po' questa critica, questo attacco che è stato fatto a Casini sulla politica dei due forni, no, del DC rispetto alle alleanze per le regionali. Non perché non fosse legittimo criticare Casini, ma perché è una critica un po' fine a se stessa, nel senso che non mi pare che ci sia poi la possibilità di un cambio di atteggiamento del Popolo della Libertà rispetto a Casini, nel senso che Casini continuerà a fare la sua politica dei due forni e il Popolo della Libertà non è in condizione di sbattergli la porta in faccia per quanto riguarda quelle regioni, poche o tante che siano, dove l'UDC accetterà di convergere con il centrodestra, per esempio nel Lazio, dove c'è il sostegno comune alla Polverini. Quindi aver criticato in quel modo Casini dicendo che il suo comportamento è inaccettabile è un po' curioso, visto che poi non ci sono conseguenze pratiche di questa critica. Beh, nel caso di Casini credo che entrino in gioco, anche in maniera forse un po' compulsiva, i sondaggi, che possono influenzare alcune esternazioni rispetto ad altre. Grazie a Stefano Folli, collega del Sole 24 Ore, che ritroveremo sicuramente in altre occasioni dell'Ottavo Giorno. L'Ottavo Giorno. Al centro della cronaca e del dibattito politico di questi giorni è entrata, suo malgrado, anche Rosarno, il comune di 15.000 abitanti in provincia di Reggio Calabria, dove, lo ricorderete sicuramente, la settimana scorsa è esplosa in tutta la sua violenza, peraltro direi in parte perlomeno annunciata, la rivolta degli immigrati che lavorano nell'agricoltura della zona, una vera fetta importante dell'economia locale. La cronaca di quei giorni, di circa una settimana fa, ormai è nota. Abbiamo visto scene di auto distrutte, cassonetti svuotati sull'asfalto, ringhiere di abitazioni danneggiate appunto per la rivolta di alcune centinaia di extracomunitari, a loro volta esasperati per le condizioni inumane in cui vivono, in questa che possiamo definire insomma una bidonville dentro o perlomeno vicino Rosarno, una vecchia fabbrica ormai in disuso. La scintilla pare sia stato il ferimento da parte di persone non meglio identificate, quindi italiani comunque, di due extracomunitari con un'arma ad aria compressa e pallini da caccia. Quindi insomma c'è stata una miccia che poi ha scatenato tutto quello che abbiamo anche visto e sentito e raccontato nei giorni successivi. L'atmosfera è rimasta pesante un po' per tutta anche questa settimana. La politica è stata gioco forza tirata dentro la questione, e direi che insomma più che litigare e scaricare un po' la palla sul campo avverso, mi sembra che non si sia distinta per molto altro. Al mio fianco c'è Francesca Padura, collega del Sole 24 Ore. Buongiorno Francesca. Buongiorno, grazie. Francesca segue da anni, si occupa in modo direi più ampio e più trasversale possibile la vicenda immigrazione. Cercheremo quindi di aprire il discorso al di là di Rosarno per capire un po' lo stato dell'arte dell'immigrazione e di una parola che dovrebbe andare d'accordo con immigrazione, cioè integrazione, che non sempre è poi così di pari passo appunto nella realtà dei fatti della quotidianità italiana. Però prima appunto di iniziare la discussione ascoltiamo un'intervista che mi sembra molto rivelatrice, molto importante, interessante, che ha fatto lunedì nel GR delle 13 la collega Cristina Carpinelli. Sentite che cosa ha detto alla Carpinelli Domenico Mondello, che è coordinatore degli agricoltori della Piana di Rosarno. Parla appunto dei lavori nei campi dell'agricoltura. Direi che l'intervista è inequivocabile, sentite. Il problema è un grosso problema, perché gli agrumi con i prezzi che hanno, solo con questo tipo di manodopera si potevano raccogliere. Io, ecco, non pagando contributi, non pagando niente, quindi se, diciamo che l'unico modo per farlo era questo. C'era un ritorno, ma se devono, se un agricoltore, un produttore deve assumere normalmente, pagare tutte le tasse di questo mondo, non credo che ce la faccia a fare la raccolta degli agrumi. E la gente del posto non si mette a tirar su gli agrumi? Costa tre volte tanto. Come si immagina che vada a finire l'anno prossimo? Che torneranno queste extracomunitarie a raccogliere le mandarine? Cioè, se si intervenisse e si lavorasse legalmente, diciamo, arance e mandarini dalla Calabria non arriverebbero più? No, con i prezzi che ci sono state vendute a 30 centesimi i mandarini quest'anno. Ma come fanno gli spagnoli allora? Ma ancora gli spagnoli hanno manodopera bassa. Però legale? Ma non lo so se ce l'hanno legale, perché anche loro sono nelle nostre stesse condizioni. Secondo me anche loro usano questa manodopera dei caffè comunitari. 10 centesimi di arance non è possibile. Di queste 6 extracomunitari ce n'erano 200-300. Sì. Quest'anno sono arrivato 1.000, non so per quale motivo. Quindi erano sempre in giro senza lavoro e quindi sono arrivata alla disperazione. Questa gente qua non riusciva, perché io li vedevo passando la mattina, ne vedevo 500-600 fermi. Francesca Padura, collega del Sole 24 Ore, direi quasi spiazzante nella sua schiettezza questa dichiarazione dell'agricoltore di Rosarno. A me da queste poche battute viene fuori una morale, cioè che prima ancora che una questione culturale di razzismo, è una questione banalmente ma tragicamente di soldi, una questione economica. Sì. Beh, sai, questi sono lavoratori clandestini, quindi senza permesso di soggiorno, comunque sono entrati in Italia, hanno trovato un lavoro e poi sono stagionali nel senso che, da quello che poi è emerso anche in questa settimana, loro vagano un po' per l'Italia, vanno dove c'è il lavoro, quindi dove c'è la raccolta prima delle arance o i pomodori, eccetera. L'esistenza dei lavoratori stagionali, anche con permesso di soggiorno, è conosciuta, cioè sappiamo dove vanno, e naturalmente appunto ci sono anche gli stagionali ricchi, i macedoni che vanno a fare il barolo, ormai il barolo lo beviamo, gli italiani lo bevono soltanto perché ci sono i macedoni, altrimenti non si produrrebbe più. E invece questi sono i clandestini poveri che vanno a raccogliere gli agrumi in Sicilia, in Calabria, probabilmente, come diceva quindi anche nell'immigrazione c'è un filone del nord e uno del sud con evidenti differenze di trattamento. Ci sono due facce dell'immigrazione, così come c'è proprio poi invece il lato dell'immigrazione regolare, quindi dei 5 milioni, ormai quest'anno saranno 5 milioni gli stranieri che vivono in Italia con un permesso di soggiorno regolare, che lavorano, che sono tanti, che voglio dire che sicuramente sono trainanti in molti settori dell'economia. Non si può prescindere dagli immigrati per poter avanti l'Italia. Sì. No, assolutamente. E loro dimostrano, tra l'altro, di essere adesso, diciamo, integrati, ma comunque di conoscere, di adeguarsi alle leggi italiane. In un certo senso, non dico anche meglio degli italiani, ma quando hanno fatto la sanatoria, quando c'è stata a settembre la sanatoria per le colf e badanti, il 13%, cioè quasi 40.000 datori di lavoro che hanno assunto connazionali, sono stranieri. Allora, che cosa significa questo? Che loro avevano comunque un reddito annuo di 20.000 euro che permetteva di assumere una colfa o una badante e soprattutto che avevano anche una carta di soggiorno, quindi che sono in Italia da un certo numero di anni. Questa è la parte dell'immigrazione che lavora, che ha raggiunto una certa integrazione anche nel territorio. Il 75% di questi sono al nord, ecco. Ecco, io vorrei allargare appunto il discorso alla di Rosarno, che sicuramente poi ha una sua specificità, perché la malavita entra in gioco nel bene e nel male, soprattutto in maniera anche pesante in questa vicenda. Però al di là appunto di Rosarno, ricordando anche che poi altre polveriere che potrebbero esplodere da un momento all'altro, o forse sono già esplose, ci sono, tanto per restare al sud, Castelvolturno, Eboli, tutta la provincia di Foggia che si surriscalda in estate quando c'è la raccolta dei pomodori. Ebbene, dicevo, al di là di Rosarno, molti, anche imprenditori, ho sentito, hanno puntato l'indice contro la legge Bossi-Fini, quindi un problema anche di leggi che forse non sono adeguate. Io non voglio fare un discorso destra e sinistra, Lega, che ha ragione o torto. Insomma, mi interessa capire se la legge Bossi-Fini, che è la legge poi cardine, che sta a monte dell'immigrazione regolare e anche irregolare, è una legge adeguata alla questione, oppure se, pur volendo, immagino in buona fede, risolvere il problema, finisce poi per ingigantirlo, perché molti imprenditori si sono lamentati di questo. Oppure penso al sistema delle quote, no? Che spesso in passato, esatto, erano inadeguate rispetto poi alla reale esigenza di manodopera. Quindi lo Stato non mi sembra collegato poi con la realtà dei fatti nell'agire di fronte a un problema importante. Il meccanismo della Bossi-Fini in realtà è e si è rivelato molto difficile da applicare. Perché? Perché prevede l'assunzione di un lavoratore straniero che sta all'estero. E quindi è difficile sia per l'imprenditore che per la famiglia italiana assumere una persona che non si è mai vista. Quindi chiamare una persona che arriva dall'estero. Di fatto i decreti flussi, quello che tu dicevi, le quote, si sono rivelati di anno in anno un paradosso, un'ipocrisia, perché invece di assumere 170.000, poi 300.000, poi si è arrivati a dei decreti flussi nel 2007 da 600.000-700.000 persone, invece di assumere quelli che stavano all'estero, che non sono mai stati all'estero, si sanavano di fatto altrettante persone che erano già in Italia. Poi tutto questo, ricordiamo che la proverbiale burocrazia italiana non aiuta, perché la legge prevede 20 giorni di tempo per dare una risposta a chi chiede un permesso di soggiorno extracomunitario. Poi, dati ufficiali del Viminale, nel 2009 ci sono voluti 291 giorni, quindi praticamente 10 mesi, esatto, per avere una risposta. In quei 10 mesi lo straniero vive nel limbo un po' del indefinito, insomma non sa bene neanche lui cosa fare. A tuo avviso lo Stato, il legislatore, da dove dovrebbe partire per cercare, non dico di risolvere il problema perché insomma nessuno ha la bacchetta magica, però almeno per arginare un po' il fenomeno, fermo restando che poi la lotta alla malavita è importante, perché certo, senza quella non si va da nessuna parte. Ma forse sull'immigrazione bisognerebbe sperimentare delle formule più flessibili, sia per quanto riguarda le assunzioni, cioè permettere alle persone che arrivano in Italia di avere un periodo di tempo naturalmente definito a disposizione per trovare un lavoro, e dare la possibilità a chi trova un lavoro di essere regolarizzato, cioè di ricevere un permesso di soggiorno. Naturalmente ci devono essere delle garanzie da parte di chi vuole assumere. Era la figura dello sponsor che per un certo periodo è stato sperimentato anche in Italia, che viene sperimentato all'estero. Ci sono delle forme appunto poi di integrazione, per cui anche i permessi appunti, no? Per cui si dà un permesso di soggiorno a chi ha determinate caratteristiche, chi ha una certa specializzazione, perché poi in realtà appunto al nord ci sono molte richieste, anche qui, che un po' come è successo a Rosarno, che comunque vengono corrisposte soltanto dai lavoratori stranieri. L'altra flessibilità e l'altra cosa che lo Stato italiano potrebbe provare a fare è anche quella di fare delle regolarizzazioni poi singole, ad personam, come avviene in Francia. Quindi tutto sommato dei piccoli rimedi in fondo realistici, esatto, empirici e non fantascientifici. Ma esistono. Poi sono tutte cose che sono conosciute, perché così come si conoscevano i clandestini di Rosarno, si sa benissimo che il problema dei rinnovi, dei permessi che è esploso nella stessa settimana di Rosarno e che riguarda invece gli immigrati irregolari potrebbe essere risolto affidando il rinnovo dei permessi di soggiorno ai comuni anziché alle questure. Ecco, tra l'altro invece in questi giorni è tornata un po' a circolare nell'aria una domanda che va di pari passo con tutte le vicende di Rosarno o simili, cioè se quello italiano sia un popolo razzista o meno, o se lo stia diventando. Allora, prima di rispondere insieme a Francesca Padura del Sole 24 Ore, torniamo idealmente a Rosarno, ascoltiamo la cronaca di quello che è successo lunedì, quando il paese, soprattutto gli italiani, sono scesi in piazza un po' a protestare del trattamento, soprattutto dei media, della vicenda di Rosarno. Ci sono anche qui molte contraddizioni, molti chiaroscuri. Sentiamo Valentina Furlanetto. Hanno sfilato in silenzio per le vie di Rosarno per protestare contro quello che hanno definito come il chiasso dei media, colpevoli, a loro dire, di aver dipinto la città calabrese come una città razzista. 20 anni di convivenza non sono razzismo, hanno scritto sullo striscione che apriva il corteo di ieri pomeriggio. Questa è la parola d'ordine, altre non sono state tollerate. Infatti gli studenti del liceo scientifico che avevano portato uno striscione con la scritta «No alla mafia, sì all'integrazione», sono stati invitati a toglierlo. Un corteo abbastanza eterogeneo, 2000 persone, molti cittadini, alcune persone di colore e poi anche i congiunti delle famiglie Pesce e Bellocco, le due famiglie mafiose che si dividono da tempo il controllo degli affari illeciti del territorio. Al clan Bellocco appartiene uno degli arrestati durante i disordini dei giorni scorsi, è figlio di Giuseppe Bellocco e proprio ieri il GIP di Palmi ha convalidato il suo arresto e quello degli altri due abitanti di Rosarno accusati di aver aggredito alcuni immigrati. Per riaffermare valori di legalità e solidarietà, a Reggio Calabria il prossimo 21 gennaio andrà il Presidente della Repubblica Napolitano. Sorvoliamo sulle contraddizioni che sono emerse in questo servizio della Furlanetto, insomma anche la vicenda dello striscione contro la 'ndrangheta, poi nascosto, cioè, è abbastanza inquietante e rivelatrice, senza poi mettere il dito, insomma, e accusare troppo i giovani ragazzi del liceo. Noto anche che non si è visto un politico nazionale scendere a Rosarno, ci arriverà presto, come ci ha spiegato il servizio della Furlanetto Napolitano, quindi anche qui la Calabria un po' abbandonata al suo destino, anche per colpe sue, ovviamente. Però torniamo sul punto se stiamo meno diventando razzisti come italiani. Anche il Papa, anche l'Osservatore Romano se lo sono chiesti in questi giorni. Siccome abbiamo un minuto, lascio a te la conclusione su questo punto, secondo anche quella che è la tua percezione, il tuo polso della situazione. Allora, la mia percezione, e mi riprendo un attimo il discorso dei permessi e anche un po' della legislazione, è che ci sia proprio un razzismo burocratico nei confronti degli immigrati. Cioè, se agli italiani venisse richiesto di rinnovare la patente anziché in pochi giorni, mesi e mesi, sicuramente altro che lo sciopero della fame che stanno facendo gli immigrati in questi giorni. Quindi sicuramente li trattiamo in maniera, da questo punto di vista, forse inaccettabile veramente. E poi vedo più razzismo o più diffidenza, più paura proprio per la sicurezza eccetera delle persone, forse appunto più di quelle di una certa età che non tra i giovani. Ecco, per fortuna credo che tra i giovani forse l'esperienza... Quindi vedi anche una sorta di suggestione magari di mezzi di informazione. Beh, sai, collettiva. Credo che sui molti mezzi di informazione, questo lo dicono anche proprio le ricerche, la stampa locale eccetera, l'immigrazione è sempre più spesso associata al discorso della sicurezza, ecco, cioè è difficile scindere il discorso appunto economico, l'accoglienza, l'integrazione, invece l'immigrazione viene sempre più spesso associata a quella della criminalità. Insomma, il tema è controverso, rimane naturalmente aperto, non potevamo risolverlo in una decina di minuti. Per esempio, il futuro sarà poi in mano agli immigrati che andranno a scuola adesso nelle scuole italiane, e qui sarebbe stato interessante capire per esempio il tuo punto di vista sulla proposta della Gelmini di mettere il tetto del 30% agli stranieri. Forse può essere un passo anche. È sicuramente un passo, vediamo appunto poi le difficoltà di applicazione che una cosa del genere richiederà, però insomma speriamo che si arrivi preparati all'anno prossimo. Poi bisognerebbe tutto sgombrare dall'ideologia, insomma, che sta sempre a monte e che condiziona troppo il dibattito. Grazie a Francesca Padura del Sole 24 Ore. L'ottavo giorno. Prima della pausa ho annunciato che adesso avremo parlato di sport e segnatamente di Juventus, ma restiamo per un attimo ancorati al tema di Rosarmo e di razzismo di cui abbiamo appena parlato pochi minuti fa, perché ieri il giudice sportivo ha deciso di chiudere la curva della Juve a Torino in occasione della prossima partita casalinga, che cade tra l'altro contro la Roma, quindi una partita molto sentita. Il motivo è semplice: la Juve è stata punita, i suoi tifosi, i suoi ultras sono stati puniti per i cori contro Balotelli mercoledì in Coppa Italia, nella partita vinta con il Napoli. E pensare che proprio quella partita sembrava aver dato un po' di ossigeno, un po' di tranquillità ai bianconeri, che sono reduci da una settimana piuttosto complicata. C'è stata la frana in campionato, il 3-0 subito in casa dal Milan domenica sera. A lungo si è parlato, anche in modo piuttosto concitato, della panchina di Ferrara a rischio. Poi appunto mercoledì è arrivata la vittoria sul campo in casa contro il Napoli, rotonda come si dice in gergo, 3-0, che ha dato qualche ora di stabilità alla squadra juventina. Sentiamo su questo Giovanni Capuano. Il consiglio d'amministrazione aveva confermato la fiducia a Ferrara anche in caso di sconfitta contro il Napoli. Non ce n'è stato bisogno, perché la Juventus si è ritrovata nella notte più difficile, trascinata dai piedi buoni di Diego e Del Piero. Il capitano ne è stato l'emblema, sue le reti del 2 e del 3-0 che hanno messo fine alla sofferenza bianconera sotto i colpi di un Napoli che non si è mai rassegnato all'eliminazione e che con Hamsik clamorosa traversa è stato a un passo dal pareggio. Vittoria scaccia crisi dunque, almeno per il momento, perché nella notte più difficile non sono mancate le contestazioni alla dirigenza, gli insulti a Cannavaro e compagni, i soliti cori razzisti rivolti a Balotelli. Peccato davvero, nel pomeriggio a San Siro il Novara ci aveva fatto respirare atmosfere da calcio inglese, inseguendo il suo sogno contro il Milan e uscendo castigato solo da un gol di Flamini a 9 minuti dalla fine. E ai quarti di finale di Coppa Italia va anche il Catania, capace di passare a Marassi contro il Genoa con una doppietta di Plasmati. Anche il servizio di Giovanni Capuano che abbiamo appena riascoltato fa riferimento ai cori razzisti della curva bianconera, e su questo tema in generale dei cori razzisti allo stadio già lunedì c'era stato uno scontro perlomeno diplomatico tra arbitri e il ministro degli interni Maroni. Sentiamo i dettagli con Dario Ricci. Pizzicato in fuorigioco Roberto Maroni. Sul tema dei cori razzisti negli stadi gli arbitri italiani infatti dicono no alla proposta del ministro dell'interno che sia il giudice di gara a decidere sull'eventuale sospensione della partita. Le norme attuali, come da indicazioni del Viminale a partire dal 2000 in poi, assegnano questo compito infatti al responsabile dell'ordine pubblico. E non è vero, spiega il designatore Collina, che l'UEFA dà questa facoltà al direttore di gara. A livello europeo a decidere è una mini unità di crisi di cui l'arbitro è solo una delle componenti. Insomma, se vorrà il ministro Maroni potrà cambiare le norme attuali e in quel caso ovviamente i fischietti si adegueranno, argomenta ancora Collina. Gli arbitri non potranno fare altro che adeguarsi a quelle che sono le eventuali modifiche apportate o dal Ministero degli Interni o direttamente dalla federazione a quelle che sono le previsioni attuali. Ma anche la FIGC frena e il presidente Abete è chiaro: meglio non sovraccaricare gli arbitri di responsabilità. La risposta più efficace è una task force ben coordinata. Su questo argomento io continuo a restare della mia idea, che ho già ripetuto più volte anche qui all'ottavo giorno. Secondo me sul razzismo il calcio spesso e volentieri preferisce fare orecchie da mercante piuttosto che affrontare di petto, magari anche con delle decisioni dirompenti, sgradevoli, la questione. Insomma, mi sembra che il calcio non si voglia impegnare fino in fondo a risolvere questo difficile, grave problema. Adesso invece veniamo ad una notizia che in parte possiamo definire pittoresca. Arriva proprio freschissima di questi giorni dal calcio inglese, un calcio che oggi è pieno zeppo di allenatori italiani, un calcio che noi qui dall'Italia guardiamo con una certa invidia per i trofei vinti negli ultimi anni proprio dei loro club e anche dello spettacolo che si vede in fondo sui campi inglesi. Ebbene, ora il calcio inglese potrebbe avere presto un proprietario italiano. Si tratta di un piccolo record. I dettagli nel GR di ieri mattina da Londra ci li racconta Lorenzo Amuso. Nel giro delle prossime ore si conoscerà il nome del nuovo presidente del West Ham e Massimo Cellino resta il favorito anche dai bookmakers inglese per diventare il primo proprietario italiano di un club di Premier League. Il presidente del Cagliari martedì è volato a Londra per trattare l'acquisto del club allenato dal suo ex pupillo Gianfranco Zola. Le loro strade sembrano dunque destinate a incontrarsi dopo 5 anni dal divorzio di Cagliari. Cellino ha già presentato la sua offerta alla Rothschild Bank, incaricata di verificare gli aspetti finanziari, e mercoledì sera ha avuto un lungo incontro con i vertici attuali della società. Secondo la stampa britannica, la sua è la migliore delle quattro offerte fin qui pervenute. Ora tocca alla CB Holding, l'attuale proprietà, decidere se accelerare i tempi per una rapida conclusione o far slittare la decisione a fine stagione. Un'ipotesi, quest'ultima, illogica, ancor prima che improbabile. Entro la fine della settimana il West Ham avrà un nuovo proprietario. E per lo sport voglio chiudere con la Formula 1, perché giovedì abbiamo ascoltato con grande curiosità, con un certo interesse, anche in fondo con un po' di tifo, il debutto in conferenza stampa del nuovo pilota della Ferrari, ovvero l'ex campione del mondo, lo spagnolo Fernando Alonso, con la speranza in fondo che possa tornare presto ad esserlo. Massimo Di Scienza. L'obiettivo è vincere il mondiale, non c'è altro obiettivo. Le idee chiare non gli mancano. D'altronde a Fernando Alonso, uno che a Maranello arriva con tutta la maturità dei suoi 28 anni e due mondiali alle spalle, non sfugge il concetto che in Ferrari oggi c'è il bisogno assoluto di tornare grandi. Per dimenticare una terribile annata, i milioni di tifosi della Rossa puntano su questo asturiano che parla la nostra lingua meglio di tanti italiani. La pennellata d'artista la piazza in conferenza stampa. Questo è al 100% il mio ultimo team. Come a dire, la Ferrari è il massimo, vinco qui, poi smetto. Sorriso e mascella larghi, ma pronti a serrarsi quando si sente affibbiare l'etichetta di nuovo Schumacher. Come lui dice Alonso, non c'è nessuno, ma adesso è un avversario come gli altri. Tanto miele invece per il collega Felipe Massa. Quello è importante, quando arrivi in un team nuovo, che il tuo compagno non sia anche lui nuovo, perché qualche volta ti trovi un po' perso in mezzo al team o in mezzo al gruppo tecnico. Con Felipe abbiamo la fortuna che lui è da tanti anni qui e penso da quel punto di vista può essere un grande aiuto per me. Ad unirli la Ferrari, a dividerli il calcio. In un ipotetico Spagna-Brasile ai mondiali, sorride Sornione e Alonso, sono spacciati. Abbiamo ancora qualche minuto da spendere insieme, quindi ne approfitto per citare almeno un'altra notizia che merita di essere ricordata di quest'ultima settimana. Mi riferisco alla scomparsa lunedì di Éric Rohmer, immenso regista francese, una delle colonne portanti della Nouvelle Vague. Il ricordo è firmato da Paolo Panceri. Lei Raggio Verde l'ha visto, è mai riuscita a vederlo? Sì, l'ho visto addirittura tre volte, proprio quando il disco solare si è adagiato dietro l'orizzonte, è vero? C'è stato come una specie di bagliore verde chiaro. Dice Verne che quando una persona vede il raggio verde, quella persona è capace di leggere nei propri sentimenti e nei sentimenti altrui. Il Raggio Verde del 1986, Leone d'Oro, la mostra del cinema di Venezia, è uno dei film più noti di Éric Rohmer, pseudonimo di Jean-Marie Maurice Scherer. Il regista, uno dei padri fondatori della Nouvelle Vague francese, è morto ieri alla soglia dei 90 anni che avrebbe compiuto in aprile. Personaggio riservato, al riparo dalle luci della fama, difficile da intervistare, cattolico e ambientalista, Rohmer lascia una filmografia abbastanza unica nel suo genere, attenta all'equilibrio tra quotidianità e dialoghi filosofici. Dopo i sei racconti morali girati fra il 62 e il 72, Commedie e Proverbi è il suo secondo grande ciclo, realizzato fra l'81 e l'87. Ne fanno parte Le notti della luna piena dell'84 e per l'appunto Raggio Verde del 1986. Nel 2001 a Rohmer viene assegnato il Leone alla carriera della Mostra di Venezia ed è sempre lì, al Festival della Laguna, che nel 2007 il regista presenta la sua ultima opera, Gli amori di Astrea e Celadon. Sulla scia del servizio che abbiamo appena riascoltato, voglio citare almeno altri due film, a mio avviso straordinari, di Rohmer. Ce ne sono in realtà tantissimi. Uno è La mia notte con Maud del 1969, con un giovane ma già bravissimo Jean-Louis Trintignant, e poi di qualche anno successivo Il ginocchio di Claire. E adesso facciamo un balzo indietro di quasi 30 anni, perché torniamo agli anni bui, foschi, dell'attentato a Giovanni Paolo II. Ci sono delle novità che riguardano l'attentatore Ali Agca, che arrivano dalla Turchia in questi giorni. Ce le racconta la corrispondente Marta Ottaviani. Mancano pochi giorni alla liberazione di Ali Agca, il terrorista turco che nel 1981 attentò alla vita di Giovanni Paolo II. I suoi avvocati in una conferenza stampa hanno reso note alcune dichiarazioni del loro assistito. Agca auspicherebbe la nascita di un nuovo impero americano per garantire la pace a livello globale. Non solo. L'ex lupo grigio, colpevole anche dell'assassinio del giornalista turco Abdi Pekci, ha confermato di aver scritto in Vaticano per recarsi in visita dopo la sua liberazione, ma di non aver ancora ricevuto risposta. I legali hanno annunciato che nei prossimi mesi il terrorista risponderà a tutte le domande sull'attentato, dissipando le voci che erano circolate sulla richiesta di milioni di dollari in cambio delle sue rivelazioni. Agca verrà scarcerato lunedì prossimo, dopo 29 anni di carcere, 19 dei quali trascorsi in Italia. Già nel 2006 era stato liberato, ma l'illusione era durata pochi giorni. L'ex lupo grigio era tornato dietro le sbarre perché si era trattato di un errore di calcolo da parte della giustizia turca. E anche per oggi siamo arrivati alla fine. Ricordo soltanto la mail a cui ci potete scrivere: ottavogiorno@radio24.it. Io ringrazio Paolo Corleoni in regia, vi do appuntamento alla settimana prossima. Sicuramente posso già anticipare che parleremo, tra le altre cose, della visita di Benedetto XVI alla Sinagoga di Roma, in programma domani, ma se ne parla già da giorni. Mi fermo davvero qui, appuntamento come sempre a sabato prossimo alle 9 oppure in replica alle 23 su Radio 24.